Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto. Buonasera a tutti e benvenuti alla prima puntata di Radio Picchetto, la radio dedicata al campo nazionale del CNJ 2018, radio che vedrà protagonisti gli Espoo Reporter, cioè i rappresentanti dei reparti che stanno vivendo il campo e che non saranno soltanto gli attori come tutti gli altri del campo, ma saranno anche i narratori attraverso la creazione del giornale del campo sotto il sole 24 ore. Ma anche appunto dei podcast, circa due al giorno, che racconteranno un po' ciò che succede qui al campo. Però certo, come ogni buon campo scout, gli scout che vi ascoltano lo sanno, non si può iniziare se non con qualche problema tecnico. E purtroppo sono stati persi alcuni file dei primi Espoo Reporter che hanno fatto la prima puntata di Antea, da Calceranica e Giovanni di Ancona 1. Sono rimaste però le loro interviste. In ordine potrete sentire l'intervista al capo scout del CNJ, l'intervista alla capo scout, una dei due capo scout della Jesci, e dal presidente della FIS. Inoltre un po' di musica che hanno scelto i ragazzi da fare ascoltare e da condividere. Quindi comunque rimane l'impegno dei nostri due Espoo Reporter, che oggi hanno fatto un ottimo lavoro. Noi ci risentiremo nei prossimi giorni attraverso le altre puntate che saranno presenti qui sul sito del CNJ, ma non solo, sarà rimbalzato anche sulla radio, la web radio della Jesci. Quindi vi lascio con il primo pezzo e la prima intervista e ci risentiamo in questi giorni e, che dire, c'è avventura! Allora, come prima intervista di questo campo, intervistiamo il capo e gli scout. Il capo scout, perfetto, bravissima. Comincerei con il nome e il cognome. Ok, allora mi chiamo Giampino Vendola, un nome stranissimo, Giampino Vendola. E di dove sei? Sono di Bergamo. E quando hai cominciato a fare scout? Prima dei lupetti, insomma. Allora, ho iniziato quando ero ragazzo, quindi sono diversi anni fa. Quindi ho fatto tutto il percorso, da ragazzo e fino ad arrivare adulto, e ho fatto il capo reparto, ho fatto il capo compagnia, ho fatto il capo gruppo, altri ruoli in associazione fino ad arrivare oggi a essere il capo scout. E da quanti anni rivesti questo ruolo? Capo scout pochissimo, sono da marzo, quindi da fine febbraio per la precisazione, quindi il tempo è per ora è molto molto limitato. Vediamo un pochettino per il futuro cosa che riserva prossimamente, insomma. Invece, parlando del campo nazionale, dopo un anno di preparativi, come sta partendo questo campo? Sei contento? Ma il campo, dopo questi lunghi preparativi, attesa, lavoro eccetera, finalmente è partito. Io direi il primo impatto fantastico, molto bello, un impatto molto colorato, piacevole, fraterno. Abbiamo avuto anche un bel clima di partenza, forse anche un po' troppo bello, perché il caldo è quello che ci sta, forse, come dire, in questi giorni particolarmente bloccando alcune cose, perché quando c'è tanto caldo c'è anche bisogno di acqua, si ha sete, bisogna sciacquarsi, così via. Però questo fa parte della vita naturale, quindi va bene così, meglio questo che l'acqua sicuramente, ma per il resto l'avvio è stato veramente molto bello, si è arrivati tutti insieme, è stato un coordinamento di arrivi molto piacevole, senza intoppi, e ora il campo sta prendendo veste con le costruzioni, le preparazioni delle cucine e domani il via con le attività. Quindi devo dire che insomma l'avvio, la partenza è molto buona. E che valore ha per il CNJ un campo del genere? Ma per tutti penso, non solamente per il CNJ, comunque cioè fare ogni tanto un campo che, come dire, mette alla prova un po' l'associazione sulle sue capacità logistiche, li mette insieme per degli obiettivi comuni, li fa conoscere, come dire, dal nord al sud, dalla Sicilia a Bolzano, da Trieste a Torino, insomma, è una cosa che è positiva e ogni tanto occorre per tutte le associazioni giovanili che vogliono così costruire un futuro migliore. E gli scout sono sicuramente fra questi, insomma, quindi è una cosa necessaria e che ogni tanto è opportuno fare. È stato difficile organizzare il tutto? Ma senza fatica io ho imparato nella vita che non si fa nulla, non si mette negli scout, quindi il fare fatica fa parte delle cose, e il successo di una determinata lavoro o successo scolastico, eccetera, non avviene mai per caso. Avviene se uno ci mette uno sforzo, una fatica, eccetera, che deve essere chiaramente non un massacro, quindi una fatica opportunamente calibrata, positiva, di collaborazione, però necessita fare un po' di fatica, perché solamente dopo la fatica hai la gioia di quello che tu hai fatto, perché se hai fatto una cosa che non l'hai guadagnata con la fatica, perde un po' di valore questa cosa. Quindi fare un campo dove c'è stato comunque un grande impegno, un grande lavoro, quindi della fatica, ma poi quando vedi il bel risultato e successo, allora come dire, sei soddisfatto, il pagamento c'è, e quindi è la cosa più bella. Hai un po' di pressione di essere l'organizzatore, tutto? Allora, pressione no, poi io non sono proprio l'organizzatore, diciamo che l'associazione quando organizza campi, eccetera, cerca di distribuire la fatica su un team di persone, perché non è che una persona fa tutto. Il bello degli scout è proprio quello, che tu puoi, come dire, avvalerti di persone competenti che fanno del proprio meglio e danno tutto quello che possono, affinché si possa sviluppare anche un campo di questo tipo. Quindi la tensione non è su di me, è distribuita su tutti, ognuno per il suo spicchio di lavoro fatto, di competenza fatta, e quindi è ben distribuita. La mia pressione è che sia una cosa bella, ma per i ragazzi, che sia un successo per i ragazzi, che tornino a casa come un evento unico, e questo è il successo. E la tensione mia sta lì, perché io poi fondamentalmente vorrei che il campo fosse un successo per i ragazzi, e non tanto perché si è mangiato, non si è mangiato, perché la tenda c'era, perché non c'era, ma perché nel suo complesso i ragazzi l'abbiano come ricordo indelebile della loro gioventù. Quindi questa è la cosa. E infine un messaggio a tutti. Ma questo è un pochettino difficile, diciamo, a tutti gli scout di vivere nella loro vita comunque un momento del genere, che poi sia un campo nazionale, che sia un jamboree, che sia un roverway, che sia comunque eventi di una certa portata. Fa sì di comprendere cos'è la fratellanza. Quindi il mio augurio è che tutti nella propria vita scout possano vivere una cosa del genere. Per i ragazzi che sono qui, come ho detto prima, e mi ripeto, è una cosa secondo me molto importante, che sappiano la fortuna che hanno a essere qui in questo momento. Tanti loro coetanei che sono a casa, che non sono scout, fanno tante belle cose, ma un evento del genere è così particolare, così profondo, che è unico. Quindi E spero che loro comprendano questa fortuna che hanno nel vivere questo avvenimento col cuore e con la testa. Grazie per la sua collaborazione. Grazie a te per la tua collaborazione. Un grosso bacio. Eccoci di nuovo qui. Siamo ora con il capo della Jesci. Ci sono poche domande, ma concitate. Per cominciare, il nome e il cognome. Allora, io mi chiamo Barbara Battilana e sono presidente della Jesci assieme a Vincenzo Piccolo. La provenienza? Allora, io sono della provincia di Vicenza, mentre Vincenzo, che è il mio partner associativo, è di Salerno. Quando e come hai iniziato Scout? Allora, io l'ho proprio iniziata in reparto, nel senso che ho iniziato a 12 anni nel reparto del gruppo del mio paese e da quel momento, quindi non ritorniamo troppo indietro negli anni, da quel momento non sono più uscita. Quanti reparti a Jesci ci sono al campo attualmente? Allora, a quanto mi risulta dovrebbero essere 3, quindi... Sono 3 gruppi, cioè 3 reparti, scusami, della regione Piemonte, perché poi per vicinanza abbiamo chiesto a loro se volevano aderire a questa proposta anche di un'esperienza diversa e di fratellanza poi alla fine, no? Quindi ok. Quanto hai partecipato per organizzare il campo? Allora, per organizzare questo campo ho partecipato poco, perché giustamente è un campo della vostra associazione, abbiamo più, diciamo così, siamo stati partecipi dell'organizzazione, nel senso che vivevamo, no, nei momenti istituzionali in cui siamo assieme con i vostri responsabili, no? Quindi i presidenti, i capi scout, i commissari internazionali del CNJ, sentivamo i racconti di quello che si stava iniziando a costruire per questo campo. Sei felice di essere qui attualmente? Molto, perché si respira proprio l'essere un campo, no? una vera e propria città di tende, città fatta da scout, che è una, cioè vuol dire per una scout, no? Per una guida è insomma l'ideale, no? Cioè la città ideale. E per finire, un messaggio da lanciare agli scout del campo? Ah, io direi proprio sulla scia dello slogan di vivere proprio questa avventura e di assaporare fin fondo la bellezza dell'essere tutti insieme, uniti dagli ideali che viviamo. Grazie mille. Prego. Allora, iniziamo con... siamo di nuovo qui con un'altra intervista. Siamo con... Matteo. E iniziamo con la nome e cognome. Matteo Spanò, vengo da Pontassieve, un piccolo paese vicino a Firenze. Ok, e quando hai iniziato Scout? Io gli Scout li ho iniziati da esploratore all'età di 11 anni. Ora che siamo al campo, ti chiediamo quanto hai partecipato per organizzarlo. Io non ho partecipato direttamente all'organizzazione del campo, ma sono qui a portare il saluto di tutta la Federazione Italiana degli Scout, di tutti gli scout d'Italia, perché oggi per noi è un giorno importante sapere che tanti esploratori del CNJ si incontrano e che vivono un'esperienza come il campo, non potevamo non venire a salutarvi. Quindi sei felice comunque di essere qui? Sono molto contento perché quando succede un avvenimento come questo è sempre qualcosa di bello per lo scoutismo, ma per tutto il paese. E soprattutto è bello per i ragazzi, già vedendo ragazzi e ragazze che stanno iniziando l'avventura del campo, si respira molto entusiasmo e passione, e questo ci ha già reso molto felici. Nel tuo ruolo di capo fisso, di cosa ti occupi? La federazione è l'unione fra le due associazioni italiane, di scautismo riconosciuto a livello internazionale, sia il CNJ sia la GESCI, e insieme organizziamo che cosa? Gli eventi internazionali, organizziamo eventi di approfondimento dello scautismo in Italia, ci confrontiamo su come vivere al meglio l'esperienza dello scautismo, un bel momento di crescita. E per finire, un messaggio che vuoi lanciare a tutti gli esploratori e le esploratrici del campo? Il messaggio mi verrebbe in mente ora da poter condividere con tutti voi è questo: state vivendo un'esperienza bellissima, l'esperienza del campo, divertitevi, prendete tutto quello che potete portare a casa e mettetelo nel vostro zaino, l'esperienza di incontro con gli altri esploratori di tutta Italia, e soprattutto ricordatevi che state facendo una cosa bella per voi, ma non solo per voi, anche per gli altri. L'esperienza del campo poi, tornando a casa, deve servire a aiutare gli altri in un momento importante del nostro paese. Sapere che tanti giovani si uniscano e stanno insieme a parlare di fratellanza è una bella cosa. Grazie mille. Grazie a te. Picchetto, picchetto, picchetto, picchetto, picchetto, picchetto.